Italia in controluce. Puntata speciale oggi 14 dicembre, come sapete oggi è il giorno dell'Emilia che riparte tutte le trasmissioni, le principali che sono coinvolte per raccontarvi questa ricostruzione, una ricostruzione che ha ancora molti nodi da chiarire, molti nodi da risolvere. L'Emilia che riparte, la ricostruzione dei teatri e la ripresa culturale, questo è il tema di Italia in controluce con l'Emilia, da sempre un'eccellenza in campo culturale, un sistema di finanziamento e di produzione dello spettacolo in Italia che, ricordo, si concentra per buona parte tra Milano, Emilia e Toscana e Marche, ma buona parte dei teatri della provincia di Modena sono ormai andati distrutti o resi inagibili dal terremoto. A Italia in controluce sentiremo tra poco l'esperienza del Teatro 29, la grande tenso struttura messa in campo a Mirandola da Emilia Romagna Teatro, e gli strati generali della cultura. E allora io saluto subito Paolo Beni, che è presidente dell'ARCI nazionale. Buongiorno Beni. Buongiorno. Ecco, voi avete realizzato proprio una sorta di diciamo di momento per comprendere, per capire cosa si è fatto e cosa si deve fare a Mirandola pochi giorni fa. Io chiedo ai nostri ascoltatori da dove si dovrebbe partire secondo voi per la ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto. 349-238-6666. Cosa non è stato fatto, cosa c'è ancora da fare e quali sono secondo voi le priorità? 349-238-6666. Allora Paolo Beni, cosa avete discusso a Mirandola e quali sono state le direttive? Ma innanzitutto a Mirandola noi quest'anno abbiamo tenuto il nostro tradizionale appuntamento, sono 5 anni che a scadenze regolari riuniamo da tutte le regioni italiane e i nostri dirigenti, le varie sedi locali e gli operatori culturali per fare il punto sull'iniziativa dell'ARCI in ambito culturale. Quest'anno abbiamo scelto di fare questo appuntamento nella provincia di Modena, in parte a Mirandola, in parte a Modena stessa, proprio per significare il nostro impegno nella ricostruzione e la nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto, che del resto fin dal primo giorno è stata l'impegno dei nostri circoli. Quello è un territorio con un'alta densità di presenza, di spazi culturali, di centri di aggregazione sociale dell'ARCI. Molte di queste strutture sono state colpite dai danni materiali del terremoto. Purtroppo devo dire che la nostra associazione si è molto mobilitata in tutto il paese con una nostra raccolta fondi e soprattutto con l'attivazione di una serie di iniziative, squadre di volontari che hanno partecipato nell'estate scorsa alle attività. E una delle cose, devo dire la prima cosa che abbiamo fatto, è quella dell'aiuto materiale alle popolazioni. Ecco, ti interrompo Beni perché ci sono alcuni ascoltatori che hanno inviato un po', come dire, sulla linea tremontiana, che con la cultura non si mangia. Questo è quello che aveva detto il ministro dell'economia del governo Berlusconi. Per esempio un ascoltatore dice la priorità alla ricostruzione, chi se ne frega della cultura, e vuole dare una risposta a questo ascoltatore? Penso che sia un approccio sbagliato, certo, lo stavo appunto dicendo, la prima cosa di cui ci siamo occupati è ovviamente i bisogni materiali di vita delle persone, tant'è vero che i nostri circoli sono diventati dei dormitori in quelle settimane, abbiamo ospitato chi era senza casa, abbiamo provveduto a fare parti per paesi interi, quindi ovviamente questo l'abbiamo ben presente. Noi pensiamo però anche che una comunità così duramente colpita dal disastro ha bisogno anche di ritrovare senso e la capacità di coesione fra i suoi componenti, e la cultura può essere uno strumento formidabile per ricreare un clima positivo tra le persone. I danni materiali si possono sempre rimediare, le case si ricostruiscono, ma l'identità, il senso, la coesione di una comunità così duramente colpita spesso è ancora più difficile ricostruirla, e la cultura come sempre è un elemento fondamentale di identità e di costruzione delle competenze di cittadinanza. Noi di questo siamo convinti, io penso di questo anche abbiamo discusso molto nelle giornate di Mirandola, che oggi il nostro paese in generale, ora stiamo parlando nello specifico dei territori colpiti dal terremoto, ma in generale stia vivendo una stagione molto difficile di regressione culturale, di regressione dei valori condivisi, della capacità delle persone di darsi un senso nei cambiamenti che stiamo attraversando e di costruirsi competenze di cittadinanza. E tanto più in un momento di grave crisi come quello del nostro paese, le persone hanno bisogno di sapere, conoscere, capire, interrogarsi su cosa sta succedendo, darsi un senso, coltivare capacità critiche, capacità di scelta e competenze di cittadinanza. Grazie Paolo Beni, grazie mille, presidente dell'ACI nazionale, che ci ha raccontato degli strati generali della cultura che si sono pochi giorni fa conclusi a Mirandola. 15.000 anni di cultura hanno portato all'iPad. Chi rinuncia alla cultura muore, dice Alessandro, credo da Senigallia. Dalle attività commerciali e delle aziende, anche se fino ad ora mi risulta si è fatto poco, dice Giancarla. Le priorità sono l'assistenza ai bambini, anziani e disabili, tante carenze dovute ai sindaci, dice Fabrizio da Modena. E Corrado da Como parla di un paese che dovrebbe concentrare più le risorse sulla prevenzione di danni per terremoti e alluvioni, ma qualche politico, l'emergenza serve a fare più soldi. Noi abbiamo chiesto a voi al 349-238-6666 da dove si deve partire per la ricostruzione dell'Emilia. Ecco, c'è chi ha pensato che si debba ricostruire anche i teatri. Sentiamo Massimo Mezzetti, l'assessore alla cultura dell'Emilia Romagna. Ma la situazione è una situazione davvero purtroppo molto triste, per non dire a tratti drammatica. Il sisma del 20 e poi quello del 29 che ha dato la seconda botta, diciamo, più forte e che ha creato un danno molto grave, perché noi oggi abbiamo il 55% dei beni culturali presenti nel territorio danneggiati e gravemente danneggiati. Fra questi 12 teatri, di cui 10 storici, sono completamente inagibili, un'altra ventina con gravissimi danni, e quindi bisogna vedere il tempo per poter porre rimedio, e poi va bene altri con danni leggeri, molti dei quali si sono già cominciati ad affrontare con dei lavori di ripristino che garantiranno l'apertura nel corso almeno di questa stagione. Quindi la situazione è davvero complicata, è davvero difficile, anche perché, come era facile prevedere, purtroppo nell'ordine delle priorità, giustamente sono venuti prima a ridare un tetto agli sfollati, riavviare gli impianti produttivi e ridare vita alle scuole e agli ospedali. E quindi i beni culturali, e fra questi teatri così come cinema, purtroppo non sono nell'ordine delle priorità, anche se si perde sempre di vista che anche queste sono di fatto anche attività produttive oltre che attività culturali. Noi siamo intervenuti immediatamente anche come assessorato e insieme all'Emilia Romagna Teatro, che è il teatro stabile regionale, con un progetto solidale che non a caso si chiama La Scena Solidale, che attingendo ai fondi ordinari, e quindi il ringraziamento mio va non soltanto a tutti gli artisti nazionali e non che hanno prestato la loro opera gratuito a bassissimo costo per poter garantire un cartellone di rappresentazioni, di spettacoli nel corso di tutta l'estate e anche di questa stagione 2012-2013, ma anche a tutti gli altri soggetti che normalmente erano fruitori di contributi della regione e che hanno rinunciato ai loro contributi per far fronte con il bilancio ordinario a questa emergenza. Abbiamo, dicevo appunto, dato vita a questo progetto insieme all'ERT, che è Scena Solidale, che ha consentito di allestire teatri tenda in tre zone strategiche, una a Finale Emilia, una a Mirandola e una a Cento, dove appunto ci sono tre sedi in cui i loro teatri sono inagibili attualmente. Questa era Italia in controluce, torneremo nuovamente a parlare di Emilia Focus Economia in onda dalle 17 con Sebastiano Barisoni, il punto sulle imprese con Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, lo speciale L'Emilia che riparte dalle 21 alle 23 con Federico Taddia, con gli interventi di sindaci, imprenditori, esponenti politici, tutto questo a Villa Tagliata in diretta di Villa Tagliata di Mirandola. Dunque questa sera, e poi noi continueremo naturalmente a parlarvi, l'Italia contro luce riprende naturalmente il suo racconto lunedì sempre alle 13:30.